Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io dico che è ora di venirne fuori da questa cosa. Credo che, a differenza del 2007, adesso ci siano le condizioni per trovare una soluzione. Secondo me una possibilità c'è, fidando molto nella nuova percezione che può avere oggi il mondo cattolico. Io credo che nel mondo cattolico sia in cammino uno sforzo di comprensione dei fenomeni nuovi che secondo me può portarci alla soluzione. Ecco. Così parlò Bersani, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a proposito delle unioni civili. Intanto il disegno di legge Cirinà slitta di 2 giorni, ma non slitta questo disegno di legge da parecchi mesi e da un anno all'altro, doveva arrivare in aula al Senato il 26 gennaio, sarà il 28. Allora, avete sentito fiducioso Bersani che dice ormai il paese è pronto e anche il mondo cattolico sta cambiando, sta percependo che ci sono dei cambiamenti, quindi fidiamo sul mondo cattolico. In realtà poi comunque Forza Italia poco fa ha fatto sapere da una riunione che voteranno contro il disegno di legge Cirinna, dicono perché vogliono votare un altro disegno che è quello dell'ex ministra Carfagna. Staremo a vedere insomma quale sarà questo percorso infinito e accidentato del disegno di legge sull'unione civili. Voi potete rispondere sia su questo oggi, dopo come al solito vi faccio il riassunto di tutta la giornata, sapete qui puntualmente avete il quadro completo esauriente delle notizie più importanti del giorno che si sta chiudendo dal mondo e dall'Italia. Vi dicevo, questo può essere uno degli argomenti che potete commentare come sempre o attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte o con i messaggi SMS al 349-238-6666. Dicevo questo, secondo voi il mondo cattolico sta cambiando rispetto a questo tema, a quello del mondo degli omosessuali, delle possibili unioni civili, se mai si arriverà a far passare questo disegno di legge? Però l'altro argomento invece che vorrei sottoporvi e di cui parleremo qua a Effetto Notte fra i vari temi è quello di una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo che ha detto che praticamente i datori di lavoro possono controllare l'uso che i dipendenti fanno delle mail aziendali e sono anche autorizzati a licenziarli nel caso li usassero i dipendenti a fini personali. Voi che uso ne fate? Ne fate intanto un uso personale, per molti diventa anche una questione di economia logistica, nel senso di non avere tanti account, tante mail. Sto lavorando, quando è aperta la mail del lavoro magari devo mandare anche al fidanzato, alla sorella, alla madre, a qualcuno una mail. Voi che uso ne fate e ritenete giusto che si possa licenziare in caso di utilizzo a fini personali? 349-238-6666 oppure come sempre pagina Facebook di Effetto Notte. Molti saranno gli argomenti anche questa sera. Come sempre direi allora di cominciare dai titoli. Tragedia in Francia, una valanga travolge un gruppo di studenti sulle Alpi, 3 morti e 3 feriti gravi. L'attentato a Istanbul, le vittime sono tutti turisti tedeschi, 4 gli arresti, il kamikaze aveva chiesto asilo in Turchia. Le molestie sessuali di massa contro le donne a Colonia, alcune denunce sono state presentate da cittadini nei confronti dell'ex capo della polizia di Colonia e di singoli poliziotti per mancato soccorso. Le aggressioni con l'acido, nuova condanna per Martina Levato, 16 anni nel secondo processo con rito abbreviato, qui a Effetto Notte ci sarà il legale di una delle vittime. La giovane americana strangolata a Firenze, sospettato un suo conoscente legato al mondo della droga. Unione civili slitta al 28 il disegno di legge in aula, la maggioranza dei gruppi di Forza Italia è contro il disegno di legge Cirinà ma non contro l'unione civili. Eutanasia, la proposta di legge sul fine vita verrà discussa in Parlamento a marzo. Musei, il 2015 è l'anno record per l'Italia, 43 milioni di visitatori e incassi per 155 milioni di euro. Cinema, Quo Vado, record italiano di sempre, punta ad Avatar con 52 milioni, Zalone supera se stesso e guarda il primato del regista Cameron. Calcio, Milan, Carpi, in gioco anche la panchina rossonera. E come avete sentito, partiamo da questa tragedia che è avvenuta sulle Alpi francesi. Una decina di studenti e il loro professore di un liceo di Lione sono stati travolti da una valanga. È accaduto sulla pista nera di Bellecombe, alle Deux Alpes. Le vittime sono 2 studenti, di cui uno di 14 anni e un cittadino ucraino che non era con la scolaresca. 2 i feriti in condizioni disperate. Il capo della gendarmeria dell'Isère ha fatto sapere che gli altri studenti travolti dalla valanga sono stati localizzati e che però continuano le ricerche. ricerche per eventuali altri sciatori investiti. Il tutto è avvenuto oggi intorno alle 16. La pista dove è caduta la valanga era chiusa, era una pista nera e in più era chiusa, ha spiegato il sindaco di Venò, che è uno dei comuni della stazione des Alpes. Secondo i media francesi, i ragazzi facevano parte appunto della scolaresca di questo liceo Antoine de Saint-Exupéry di Lione, e secondo quanto riporta alcuni media francesi erano tutti sciatori esperti, e nella giornata di oggi il rischio di valanga lì era al terzo grado su una scala di 5, quindi è stata incoscienza, inadeguatezza di chi ha accompagnato i ragazzi. Ancora non ci sono questi dettagli, ma ne vorrei parlare, e abbiamo l'onore di avere qui a Effetto Notte Piero Gross, ex sciatore alpino, campione olimpico, oro nello slalom speciale a Innsbruck nel 1976. Piero Gross, buonasera. Buonasera a tutti. E grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi. Sicuramente Piero, lei conosce perfettamente la neve, chi meglio di lei. È secondo lei dovuto al fatto che, allora, l'imprudenza, al fatto che con riscaldamento generale, sappiamo che ci sono delle temperature un po' particolari, sicuramente sopra la media c'è più rischio. Che cosa può essere successo? Ma sicuramente è veramente incredibile, conosco bene le Des Alpes, ci sono stato tantissime volte e ha delle pendenze veramente molto ripide, e quindi il fatto che la pista fosse chiusa è già un segno comunque che lì sono molto attenti, perché appunto hanno dei pendii davvero incredibili. E quindi penso che sia proprio solo una questione di incoscienza. Una pista nera ripida su una pista battuta sicuramente ha dei rischi notevoli, e se sono davvero degli sciatori esperti ancora peggio, perché un sciatore esperto comunque non va in una pista chiusa in quelle condizioni, quindi è davvero incredibile. Poi quest'anno appunto non ha fatto queste grandissime nevicate, arriva la prima nevicata e succedono queste tragedie, è davvero incredibile. Cosa consiglierebbe Piero Gross? Quindi qui erano degli studenti, bisogna capire se li ha portati il professore, se sono scappati a questo, certo, insegnante, insomma. Quali sono le cose da tenere sempre presente quando Ma si scende? È chiaro che la prudenza è sempre la cosa più importante, perché appunto uno sciatore esperto sa che quando ci sono 20, 30, anche solo 40 centimetri di neve su un pendio ripido e per di più liscio, magari perché prima era battuto, è chiaro che il rischio è ancora più grosso. E le Des Alpes, come dicevo prima, sono molto attenti in tutte le Alpi francesi, perché loro hanno veramente una grandissima esperienza e appunto dei pendii che sono molto diversi dai nostri in un certo senso, e quindi credo che sia stata solo un'imprudenza. Io non credo che ci fosse un maestro di sci con loro, me lo auguro davvero, perché sarebbe ancora peggio, e quindi insomma è davvero una tragedia che si poteva e si possono evitare queste tragedie, perché la prudenza è la prima cosa da adottare in montagna, soprattutto quando si va fuori pista. E se non lo sa Piero Gross, lei scia ancora naturalmente, immagino. Sì, certo, io sicuramente questi rischi non li corro, sono un fifone di natura, ma comunque ripeto, bisogna sentire i bollettini, bisogna parlare con la gente del posto, con gli addetti degli impianti, e quindi la pista era chiusa, e in Francia, come dicevo prima, sono veramente molto severi in queste cose. E se lo dice un campione olimpico, grazie mille Piero Gross. A voi, buona serata. Grazie. Buona serata. E passiamo adesso all'attentato di Istanbul. Il primo ministro turco Davutoğlu ha annunciato che altri 4 sospetti sono stati fermati per un possibile coinvolgimento nell'attacco terroristico di ieri, in cui sono morte 10 persone, tutti turisti tedeschi, e si apprende che Kamikaze aveva chiesto asilo in Turchia. Torneremo poi a parlarne tra poco, collegandoci direttamente con Istanbul. E siamo alle molestie sessuali di massa contro le donne a Colonia, un argomento che continua naturalmente per la sua gravità a trascinarsi di giorno in giorno. Sono arrivate alcune denunce, sono state presentate da cittadini nei confronti dell'ex capo della polizia di Colonia e di singoli poliziotti per mancato soccorso. Nel frattempo il primo vicepresidente della Commissione europea, Timmermans, rispondendo a una domanda sulla stretta del governo tedesco sui richiedenti asilo dopo i fatti di Colonia, ha commentato: se chi riceve protezione internazionale non rispetta le leggi, è giusto che perda il diritto alla protezione, ed è giusto essere duri su questo. Si deve capire, dice Timmermans, come nell'Unione vogliamo si trattino le donne, non vogliamo tornare al Medioevo. Migranti, da Capodanno sono già oltre 23.000 i migranti che hanno raggiunto l'Europa entrando in Italia e in Grecia attraverso il Mediterraneo, dove almeno 58 sono morti in mare, lo rende noto l'Organizzazione Internazionale sulle Migrazioni. In Italia intanto è stato espulso il padre del ragazzo che all'indomani degli attacchi di Parigi aveva detto a scuola: hanno fatto bene. Hanno fatto bene, adesso andiamo a Roma e ammazziamo il Papa, viva l'ISIS. Parlava così a scuola l'indomani della strage di Parigi del 13 novembre il figlio dell'uomo espulso oggi per motivi di prevenzione di terrorismo. Si tratta del primo provvedimento di espulsione del 2016, il 67esimo dal 2015. Lo ha firmato il ministro dell'interno Alfano, che ha descritto l'uomo allontanato come fortemente ostile agli usi e costumi occidentali. Si tratta di un cittadino macedone 39enne, residente nel Trevigiano, in Italia dal 1998, impiegato regolare in una ditta. L'uomo aveva cambiato completamente vita dopo essersi convertito all'Islam radicale nel 2014, quando ha cominciato ad avere contatti con persone di origini balcaniche accomunate da posizioni oltranzistiche e ideologie di stampo wahabita. Noi siamo un paese che accoglie chi fugge da guerre e persecuzioni, ha ribadito Alfano, ma chi non rispetta le nostre regole o si dimostra persino ostile alle nostre tradizioni lo espelliamo. Questa è la nostra linea. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si torna a parlare dei Marò, perché c'è botta e risposta tra l'Italia e la Corte Suprema indiana sulla sorte di due fucilieri, in particolare di Massimiliano Latorre. Massimiliano Latorre resta in Italia. A due giorni dalla sua scadenza, la Corte Suprema indiana oggi ha infatti esteso fino al 30 aprile il permesso concesso al fuciliere di Marina dopo l'ictus che lo ha colpito. Con il commilitone Salvatore Girone, che si trova ancora a Nuova Delhi, Latorre è accusato di aver ucciso due pescatori indiani nel corso di una missione antipirateria nel 2012. Il prolungamento del suo permesso è stato deciso per consentire al governo indiano di formalizzare davanti alla Corte, in una nuova udienza fissata per il 13 aprile, la sua linea sull'arbitrato internazionale avviato in estate per fare chiarezza sulla giurisdizione del caso. Ad agosto il Tribunale del Mare di Amburgo ha imposto a India e Italia di sospendere ogni iniziativa giudiziaria in attesa della conclusione della procedura arbitrale. Per questo motivo il nostro Ministero degli Esteri oggi ha fatto sapere di ritenere preclusa ogni decisione da parte della Corte Suprema indiana sulla Torre, che potrà invece restare in Italia per tutta la durata dell'arbitrato, sostiene la Farnesina, che punta ora a riportare a casa anche Girone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo alla politica con il caso di Quarto. Ormai scontro totale sul caso Quarto tra Movimento 5 Stelle e PD. Beppe Grillo attacca: sono spine per la sorella del premier Benedetta Renzi e assessore a Castenaso, dove il sindaco Stefano Sermenghi è sotto indagine per minaccia alla collega di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, anche lei PD. Intanto a Quarto, Rosa Capuozzo, il sindaco espulso dal Movimento 5 Stelle, è tornata in comune per formare la giunta. Così il deputato 5 Stelle Alfonso Bonafede. Nel caso Quarto la camorra non ha ottenuto nulla e contemporaneamente mandiamo ai cittadini disonesti un messaggio: scordatevi di infiltrarvi nel Movimento 5 Stelle, non ce la farete mai. Ma dal PD replica Alessia Rotta. I tentativi di giustificazione del direttorio tutto campano del Movimento 5 Stelle, se possibile, peggiorano la situazione. Da quello che emerge è davvero difficile pensare che non sapessero nulla. A loro insaputa non funziona. Qui ad essere lesa è la verità. Da Forza Italia Renato Brunetta chiede chiarezza al Movimento 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito delle unioni civili, slitta, vi dicevo, al 28 la discussione del disegno di legge in aula. Intanto l'assemblea di Forza Italia, a cui prende parte anche Silvio Berlusconi, ha deciso di votare no al disegno di legge Cirinna sulle unioni civili, che a fine mese appunto saranno all'esame di Palazzo Madama. Dobbiamo spiegare bene la nostra posizione, ha detto Berlusconi. Siamo favorevoli alle unioni civili, ma no al progetto Cirinna perché presenta troppe criticità. E si parla anche di eutanasia, perché la proposta di legge su fine vita verrà discussa in Parlamento a marzo. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo, che ha stabilito oggi anche un orientamento di massima per la calendarizzazione dei provvedimenti da discutere nei prossimi due mesi. C'è anche da dire che è stato un flop il 2 per 1000 per i partiti, perché solo lo 0,04% dei contribuenti italiani, poco più di 16.500 su 40 milioni, ha deciso di destinare il 2 per 1000 delle proprie imposte sul reddito della persona fisica al finanziamento di un partito politico. E quanto emerge da un rapporto del Ministero dell'Economia, e il partito che ha ricevuto più versamenti è il Partito Democratico. Cronaca, nuova condanna per Martina Levato al processo per le aggressioni con l'acido. Con il rito abbreviato è stata condannata a 16 anni, ne deve già scontare 14 per un precedente processo. Poi ne parleremo con l'avvocato del giovane parte lesa in questo processo. E a proposito invece del caso della 35enne americana strangolata a Firenze, c'è una novità. Sarebbe un conoscente di Ashley Olsen, la persona sospettata di averla uccisa strangolandola nella sua casa. L'uomo africano sarebbe già conosciuto dalle forze dell'ordine per questioni di droga. L'incontro con Ashley potrebbe essere legato a questo aspetto e potrebbe aver avuto uno sviluppo di tipo erotico, non si sa ancora se in modo consensuale. E l'assassino ha strangolato Ashley usando un cavo o qualcosa di simile. Parliamo di salute. Ebola, domani l'OMS annuncia la fine dell'epidemia. Ci sono stati 2 anni di paura, superati 11.000 morti, mai così tanti per questo virus. Domani ci sarà questo annuncio. E poi un'altra cosa che arriva dopo la condanna, tra virgolette, diciamo, di carne e caffè. Ora tocca allo zucchero salire sul banco degli imputati. Secondo un nuovo studio appena pubblicato dai ricercatori del MD Anderson Cancer Center, Università del Texas, sulla rivista scientifica Cancer Research, l'elevato consumo di zuccheri tipico della dieta occidentale e anche delle abitudini ormai radicate in Italia farebbe lievitare il rischio di tumori al seno e metastasi ai polmoni. Musica. David Bowie riposerà in pace sul suolo americano. Secondo fonti di stampa, infatti, pare che la famiglia abbia deciso sia di tenere i funerali sia di seppellire l'Rockstar a New York, la città che aveva scelto come sua seconda casa da circa 20 anni. Grande delusione da parte dei fan a Londra. Per il cinema è Quo Vado il film italiano più visto di sempre. Quello di Checco Zalone supera se stesso, fa registrare un nuovo record. È stato visto da 7.347.000 persone per un incasso di oltre 52 milioni di euro di incasso. Il precedente record apparteneva sempre a Zalone con Sole a catinelle nel 2013. Per i musei 2015 col segno più è stata un'ottima annata per i musei italiani, ha detto il ministro Franceschini. Invece per il calcio cosa ci dice Giovanni Capuano di questa partita Milan-Carpi, che non è solo, diciamo, una partita da risultato del momento, ma c'è in gioco ben altro, Giovanni? Sì, c'è in gioco la panchina di Mihajlovic, però proprio 20 secondi fa il Milan si è portato in vantaggio con Bacca, dunque Milan che sta vincendo 1-0 sul Carpi. È stato un gol strano perché Bacca è stato lanciato da Onda, ha superato il portiere e poi ha segnato con una rabona, cioè con il tocco incrociando le gambe dietro. Rabona. Una rabona si chiama, sì, è una cosa tipica dei sudamericani, diciamo non ha scelto la soluzione più facile. Tra l'altro un paio di mesi fa in campionato aveva sbagliato un gol praticamente a porta vuota così e Mihajlovic se l'era letteralmente mangiato. Evidentemente non difetta di carattere l'attaccante colombiano, perché in una gara delicatissima come questa, per le ragioni che insomma ricordavamo prima, con la porta spalancata ha scelto nuovamente questa soluzione, non la più semplice, questa volta gli è andata bene. Dunque il Milan è in vantaggio 1-0 sul Carpi in questa partita che vale la panchina per Mihajlovic. Per il Milan vale quasi lasciapassare per la finale di Coppa Italia, anche se siamo soltanto ai quarti di finale, ma chi esce vincente da questo scontro poi giocherà la semifinale contro la vincente di Spezia Alessandria, ovvero una squadra di Serie B contro una squadra di Lega Pro. E quindi diciamo che da questa parte del tabellone c'è la possibilità di arrivare fino alla finale. Mihajlovic gioca praticamente con tutti i titolari, davanti ci sono neanche Bacca, c'è Balotelli in panchina e potrebbe tornare oltre 2 mesi dopo la pubalgia che l'ha praticamente tenuto fermo per tutta la prima parte della stagione. Non c'è Luis Adriano, che a Londra in attesa del transfer andrà in Cina per 14 milioni. E a proposito di mercato, l'ultima notizia che ti do, prima della partita ha parlato Adriano Galliani, perché c'è la possibilità che Stefan El Shaarawy, che deve lasciare il Monaco, che non lo vuole riscattare, non solo possa tornare in Italia, ma possa tornare direttamente al Milan e restarci. E questa è una notizia che può interessare anche Antonio Conte, perché El Shaarawy è un giocatore che dovrebbe far parte dei 23 che a giugno andranno all'Europeo. E se, sicuramente Antonio Conte ci ascolterà. Grazie Giovanni Capuano, ci sentiamo dopo per gli aggiornamenti. A dopo. E qual è la notizia extra di oggi? È un decreto sulla depenalizzazione di un reato, diciamo, che dovrebbe in settimana arrivare all'esame del Consiglio dei Ministri. Non si occupano solo di economia e di unioni civili, ma fare la pipì per strada tra qualche giorno, quando passerà questo decreto, non sarà più reato, ma il rischio è comunque una multa fino a 10.000 euro. Allo stesso pericolo andrà incontro chi va in giro seminudo o prenderà la tintarella come mamma l'ha fatto. Quindi attenzione a essere pudichi. E adesso, prima di lasciarci per il primo aggiornamento per chi sta viaggiando, vedo i vostri vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche gli sms al 349-238-6666 a proposito di questa sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che dice che i datori di lavoro possono controllare l'uso che i dipendenti fanno della mail aziendale e sono anche autorizzati a licenziarli in caso di utilizzo a fini personali. Giuseppe scrive: mi sembra una sentenza non al passo con i tempi. Con gli smartphone si è collegato 24 ore, usare la mail aziendale, in questo caso era una chat, Yahoo Messenger, giustamente dice, è veramente da stupidi. La mia società dà la possibilità di usare il collegamento aziendale per uso privato per un massimo di un'ora al giorno, divisa in frazioni di 10 minuti, come per fumatori la pausa. Fumo, è interessante questa cosa dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Diamo ancora uno dei vostri tanti messaggi sulla questione delle mail e della possibilità di licenziare, come ha sentenziato la Corte Europea dei Diritti. Alberto: se la mail è aziendale, trovo giustissimo, perché stai usando un marchio di fabbrica, per cui è giusto che possa verificare l'uso che ne fai. Il problema non si pone, perché se uno non vuole seccature si fa un account personale, scrive e fa quello che gli pare senza problemi. Così scrive Alberto. 349-238-6666 per le vostre opinioni, oppure la pagina Facebook di Effetto Note, in particolare questa sera su questa questione della mail aziendale utilizzata a fini personali, di cui poi parleremo anche con il segretario generale dell'autorità garante per la privacy. Tra poco invece ci collegheremo con Istanbul, e allora però vi ricordo intanto le notizie più importanti del giorno. Kamikaze, appunto, a Istanbul aveva chiesto asilo in Turchia, arrestati tre russi e il primo ministro Davutoğlu evoca attori segreti nella strage, ne parleremo tra poco. Unioni civili in aula saranno il 28 gennaio, Berlusconi cerca una linea comune ma dice che Forza Italia voterà contro il disegno di legge Cirinna. Ultimo discorso di Obama alla nazione, con citazioni del Papa, no all'odio contro i musulmani. Il declino dell'America è pura fantasia, dice. Marò, la Corte indiana e la Torre in Italia fino al 30 aprile, concede la Corte indiana, resterà qui fino alla fine dell'arbitrato, risponde l'Italia. Valanga killer, liceali francesi travolti sulle Alpi, un professore li porta su una pista chiusa, tre morti e altri tre gravi, ne abbiamo parlato con Piero Gross, ex campione olimpico. Aggressioni con l'acido, 16 anni a Martina Levato, 9 a Magnani il suo complice, dice lei si sono accaniti contro di me. Parleremo con l'avvocato di Stefano Savi, sfigurato e quasi cieco per questa aggressione. Roma finisce l'era Garcia, torna Spalletti. 15, colleghiamo con Istanbul con Marco Barbonaglia. Ciao Marco. Ciao. Per ritornare sull'attentato di ieri nel centro storico, nel cuore commerciale storico di Istanbul, in un attentato che ha provocato 10 morti, tutti turisti tedeschi. Il ministro degli esteri di Berlino ha confermato anche 7 feriti tedeschi, con 5 in reparti di cure intensive. Un cittadino saudita, abbiamo detto ieri, di 28 anni, di origini siriane, si è fatto saltare in aria ieri mattina, appunto nel centro storico di Istanbul, a Sultanahmet, dove si concentrano i principali monumenti della megalopoli turca, visitata ogni giorno da decine di migliaia di turisti, e i tedeschi appaiono proprio loro come i più rappresentati in Turchia. Oggi ci sono delle novità, Marco, nel senso che, appunto, come citavo prima nei titoli, Davutoğlu, primo ministro turco, evoca degli attori segreti in questa strage, dei presunti attori dietro questo attacco che avrebbero usato l'ISIS come subappaltatore addirittura. Sì, questa è una tematica che è evocata più volte, in Turchia. L'ISIS viene vista come qualcuno che viene mandato, diciamo, in qualche modo appunto da un mandante, quindi gli occhi sono di solito puntati sul regime di Bashar al-Assad, gran nemico di Erdogan e del suo partito. E un'ombra che è stata evocata in qualche modo, in maniera anche da giornali vicini, da uno in particolare vicini al governo, è anche quella della Russia. Quindi sì, l'ISIS viene visto in questa maniera, spesso viene evocato. Poi ci sono vari punti di vista in Turchia, ovviamente, su questo. L'opinione pubblica è molto frammentata comunque. A proposito di opinione pubblica, infatti, Marco Barbonaglia, dopo l'attentato di ieri, che non è il primo in Turchia, ma insomma è gravissimo, poi nel cuore pulsante della città, che mira anche evidentemente a distruggere il turismo di Istanbul e della Turchia, come di altri paesi, abbiamo visto la Tunisia, l'Egitto. Che cosa pensa l'opinione pubblica? Che la Turchia avrebbe fatto meglio a coinvolgersi più direttamente e più esplicitamente contro l'ISIS, oppure il contrario, perché sappiamo che finora ha mantenuto, dicevamo anche ieri, una posizione ambigua, no? L'opinione pubblica, come ti dicevo, è divisa, e come sempre È vero che c'è stato questo blocco dell'informazione, per esempio, è vero che c'è stato un divieto di dare notizie sull'attentato, che vale soprattutto per TV e radio, che è partito immediatamente, che ha impedito alla fine ad ogni media di diffondere immagini relative agli attacchi terroristici. Però è vero che proprio in relazione anche a questo non sono mancate critiche al governo e polemiche, dunque c'è una parte del paese che ritiene il governo o incapace o almeno indirettamente responsabile. E non è un caso se Kemal Kılıçdaroğlu, leader del principale partito di opposizione, il CHP, ieri ha detto il blocco dell'informazione è arrivato ancora prima delle ambulanze e questa è stata l'unica misura, ha detto, adottata da un governo che lui ha definito non in grado di occuparsi del paese. Ovviamente non la pensano tutti così, c'è chi sostiene l'esecutivo e ritiene che Erdogan sia invece l'uomo giusto per combattere ogni tipo di terrorismo, l'uomo forte, ma infine vorrei anche dire, solo per dare un'idea di quanto è divisa l'opinione pubblica, c'è anche una parte piccola, ma è emerso ieri un think tank di Ankara, in uno studio ha detto che il 10% dei turchi non riterebbe l'ISIS un'organizzazione criminale. Non lo riterebbe un'organizzazione criminale? Il 5% ne approverebbe addirittura le azioni, secondo questo studio. Direi che è piuttosto preoccupante, insomma. Marco, quello che accomuna probabilmente i turchi naturalmente è la paura in questi momenti che lasciando stare la minoranza estrema che ritiene l'ISIS non un'organizzazione criminale ovviamente, perché comunque ieri nella vita di tutti i giorni, oggi la vita è ripresa, ovviamente uno può essere indotto a pensare che tutto sia perfettamente normale, la verità è che ieri, come è ovvio che sia, faccio un esempio, io dovevo andare a Sultanahmet ovviamente dopo l'attentato ed mi trovavo nella parte asiatica, i traghetti erano tutti fermi nei porti perché c'era un fortissimo vento, non si potevano muovere e quindi ho preso il Marmaray, il treno supermoderno che passa sotto il Bosforo. Bene, l'ingresso era completamente deserto, le rampe di scala erano vuote e ad aspettare il treno ci saranno state una trentina di persone, una scena surreale a quell'ora tu, della giornata. E tu quindi anche hai visto più in generale che la zona storica è svuotata rispetto a ieri, cosa hai notato di... Mentre oggi le zone, diciamo, tra virgolette più turche, quindi la gran parte della città ha ripreso la sua vita, possiamo dire, apparentemente normale, sicuramente, la zona storica rimane vuota, sicuramente Sultanahmet, non è una cosa tra l'altro solo di oggi, era già un trend di questo tipo, quindi sono 2 o 3 mesi che si sta progressivamente svuotando, da dopo direi l'attentato di Ankara ci sono stati sempre meno turisti e anche a bassa stagione. Grazie Marco Barbonaglia da Istanbul, ciao Marco. Grazie, ciao. Noi invece passiamo a una vicenda tutta italiana, quella delle aggressioni con l'acido. Oggi è arrivata la seconda condanna per Martina Levato nel processo con rito abbreviato, è stata condannata a 16 anni. Ve lo ricordo, lei ex studentessa della Bocconi, nonché madre da qualche tempo di un bambino di 5 mesi, adesso è affidato a una comunità in attesa di una decisione su un'eventuale adozione. È stata condannata a questi 16 anni per aggressioni con l'acido messe in atto insieme col suo amante, compagno Alessandro Böcher e con il loro complice Andrea Magnani, condannato lui a 9 anni e 4 mesi, il bancario che si dice succube della personalità del broker. Martina Levato, vi dicevo, è già stata condannata a 14 anni nell'altro processo per l'agguato a Pietro Barbini e Alessandro Böcher, anche lui è già condannato a 14 anni sempre per il caso Barbini, è a processo invece con rito ordinario in questo secondo caso. La sentenza di condanna di oggi per Martina Levato si riferisce all'aggressione a Stefano Savi, è stata condannata a 16 anni. Savi, vi ricordo, è lo studente sfigurato con l'acido per uno scambio di persona, soltanto perché assomigliava a un fotografo, Giuliano Carparelli, che aveva avuto un breve contatto in una discoteca con Martina Levato. In più, oltre a questa condanna di 16 anni, è stata condannata a più di 1 milione di euro di risarcimento per Savi e 100.000 per la famiglia. Si parla di una cifra record. Sentiamo intanto Martina Levato, scoppiata a piangere durante la lettura della sentenza di oggi, ha detto: perché c'è questo accanimento nei miei confronti quando Andrea Magnani, mio complice, è stato condannato io a 16 anni e lui solo a 9 anni e 4 mesi. Sentiamo la legale di Martina Levato, Alessandra Guarini. Rimane da capire come mai però ad Andrea Magnani abbia riconosciuto una pena più bassa rispetto a quella inflitta alla signora Levato, che peraltro è l'unica ad aver fin dall'inizio ammesso le sue responsabilità, ad essersi pentita, ad aver fatto un percorso e soprattutto è l'unica che è venuta in aula, si è messa a nudo di fronte al giudice, ci ha raccontato e descritto la sua dimensione emotiva, il caos emotivo in cui si è trovata e ci ha spiegato perché ha agito quella violenza. Questa è la legale di Martina Levato, ma vorrei sentire Andrea Orabona, che saluto, avvocato, legale di Stefano Savi. Buonasera. Chiedere se siete soddisfatti, se, diciamo, un po' retorico, è anche difficile, perché soddisfatti per poi quelle che sono le condizioni comunque di Stefano Savi ancora adesso, no? Un po' difficile da dire, però ritenete equa questa condanna, avvocato Orabona? La condanna è certamente equa, e siamo, per quanto occorre, possa soddisfatti. Attribuisce finalmente un volto agli autori delle gravissime lesioni a Stefano Savi, quindi in primis a Martina Levato e anche ad Andrea Magnani. Sicuramente avrà un peso specifico significativo questa sentenza nei confronti del processo con giudizio ordinario nei confronti di Alexander Böttcher, quindi sicuramente accogliamo con favore la sentenza e il riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti dello Stefano Savi e dei familiari. A proposito di questo risarcimento, che è stato appunto definito come una cifra record stabilita dal giudice, più di 1 milione di euro per Stefano Savi e 100.000 euro per la sua famiglia, ma da chi verranno questi soldi? Cioè, c'è la Martina Levato a questi soldi? Sarà lei a pagare? Ecco, quello diventa poi un problema d'esecuzione delle sentenze di condanna. Allo Stato la sentenza non è neanche passata in giudicato, quindi poi vedremo anche nei successivi gradi di giudizio che cosa avverrà. Certo. Certamente 1 milione di euro è però una disposizione provvisoriamente esecutiva, quindi volendo potrebbe da essere messa in esecuzione. Attendiamo le motivazioni entro 60 giorni e poi agiremo di conseguenza, ecco, anche se alla luce del sole dei beni nei confronti di Martina Levato, su cui soddisfarsi immediatamente non ce ne so. Senta, avvocato Orabona, quindi lei giustamente ricordava che questa è una condanna in primo grado di questo processo per rito abbreviato per le lesioni a Stefano Savi, poi ci sarà il secondo grado, immagino ci sarà il ricorso, no? Si arriverà probabilmente fino in Cassazione. Immagino che le difese ricorreranno in appello e in Cassazione, ma confidiamo nel GUP e nella tenuta motivazionale della sentenza che andremo a leggere tra 60 giorni. La distinzione di pena tra quella inflitta al Magnani e quella inflitta alla Levato, ecco, credo, poi appunto leggeremo le motivazioni tra 60 giorni, potrà appoggiarsi sui distinti ruoli che entrambi hanno assunto nell'ambito della complessiva vicenda, che sono ben distinti tra loro. Quindi, ecco, forse il discrimine tra i 9 anni e 4 di reclusione e i 16 anni a Martina Levato, i primi nei confronti di Magnani, poggiano su una valutazione del giudice, su una distinzione dei ruoli che comunque è ben netta. Tanto il Magnani è un complice secondario, insomma, un soldato semplice, come è stato definito. Orabona, mi dica un'ultima domanda: come sta il suo assistito Stefano Savi? Ma devo dire che lui è molto forte e sta sempre migliorando ancora di più da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista morale sicuramente questa sentenza lo ha aiutato molto perché brancolava nel buio nei primi 4-5 mesi dell'aggressione dell'acido, non riusciva a spiegarsi che potesse averlo colpito in un modo del genere, perché è vittima di uno scambio di persona, come dicevamo, quindi ancora più è un reato aberrante, certo. Quindi poi fortunatamente Procura della Repubblica e Polizia Giudiziaria dopo 5 mesi hanno iniziato a indagare e poi siamo arrivati a questa sentenza di condanna, quindi aver attribuito appunto un volto responsabile per Stefano Stefano Savia è un grande momento di, ecco, gli restituisce un po' di serenità. Grazie avvocato Rabone, grazie e buon lavoro. Grazie a lei e buona serata. Grazie, buona serata. Direi, prima di leggere i vostri messaggi ancora sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, dobbiamo prenderci questa piccola pausa di ricreazione. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano, sempre con me il vostro attento, paziente ascolto e anche i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. A proposito della sentenza della Corte Europea di Diritti Umani sull'uso della mail aziendale per fini personali, e ha rigettato il ricorso di un uomo che era stato licenziato perché appunto aveva utilizzato la mail personale, uno strumento di messaggi, la chat Yahoo Messenger, per scrivere alla fidanzata, e anche il fratello è stato licenziato. Che cosa ne pensate? Stanno arrivando molti vostri messaggi, tra poco li rileggerò anche insieme all'ospite che tra poco vi presento. Ma vi ricordo intanto le notizie, se lo avete acceso puntualmente alle 21, le notizie più importanti del giorno. Tragedia in Francia, una valanga travolge un gruppo di studenti sulle Alpi, 3 morti e 3 feriti gravi. L'attentato a Istanbul, le vittime sono tutti turisti tedeschi, 4 gli arresti, il kamikaze aveva chiesto asilo in Turchia. Le molestie sessuali di massa contro le donne a Colonia, alcune denunce sono state presentate da cittadini nei confronti dell'ex capo della polizia e di singoli poliziotti per mancato soccorso. Le aggressioni con l'acido, nuova condanna per Martina Levato, 16 anni nel secondo processo con rito abbreviato, abbiamo sentito il legale della parte lesa, Stefano Savi. La giovane americana strangolata a Firenze, è sospettato un suo conoscente legato al mondo della droga. Unioni civili, slitta al 28 il disegno di legge in aula, intanto Forza Italia decide che voterà contro il disegno di legge Cirinnà, e per quanto riguarda Milan Carpi sono 2-0 per il Milan. Dunque, vi dicevo di questa sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, secondo la quale i datori di lavoro possono controllare l'uso che i dipendenti fanno delle mail aziendali e sono anche autorizzati a licenziarli in caso di utilizzo a fini personali. La decisione è stata presa in riferimento a ricorso presentato da un cittadino romeno licenziato perché scoperto mentre chattava con la fidanzata su Yahoo Messenger. Tra poco saluterò l'ospite, ma voglio citare ancora alcuni dei vostri messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alcuni che sono molto rigorosi, con grande senso civico e aziendale. Adelmo dice Corte, no, questo è al contrario, però Adelmo dice Corte Europea dei Diritti Umani, ma smettiamola di chiamare Giorgio uno che si chiama Renzo, questi sono pagati per distruggere i diritti umani, non per tutelarli. Giorgio invece scrive se la cassetta è aziendale mi pare giusto, ma uno non può proprio utilizzare una propria, o meglio usare il telefono. Largen scrive qual è il bisogno di usare quella aziendale oggi, che puoi mandare mail anche dallo smartphone, comunque licenziare mi sembra esagerato. Alberto scrive io uso il PC per fini personali, YouTube, newspapers, eccetera, in pausa pranzo. Vela scrive giusto una sanzione, il licenziamento è esagerato. E poi ancora altri messaggi, chi non lavora va licenziato, si chatta nelle pause concordate, non si può usare sempre due pesi e due misure. Ma cosa ne pensa il segretario generale dell'autorità garante della privacy Giuseppe Busia? Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera. Allora, questa è la sentenza. A molti non è chiaro fino a che punto si rischi, non si rischi. Ogni azienda forse avrà delle regole sue interne. Sì, innanzitutto bisogna capire cosa la Corte ha detto, perché forse è stata data una lettura un po' semplificata. Se si legge la sentenza si vede che la Corte ha semplicemente detto non è irragionevole una scelta che ha fatto il legislatore romeno, come ricordavi, in un caso particolare, e questo caso particolare è veramente particolare, nel senso non si è detto è possibile per un datore di lavoro controllare comunque chiunque arrivare a licenziare. Cosa ha detto? Nel caso di specie l'azienda aveva informato il lavoratore, gli aveva detto guarda ci sono delle condizioni d'uso, tu non puoi assolutamente usare la mail a fini privati, e quindi in questo già aveva ridotto in qualche modo l'aspettativa di riservatezza nell'utilizzo del messenger che lui aveva utilizzato. Seconda cosa, esisteva, non è stato licenziato perché usava semplicemente per fini personali questo strumento, ma c'era un calo di produttività, era una persona da quello che risulta che lavorava poco, e allora per provare il fatto che lavorasse poco, capire qual era l'elemento per cui lavorava poco, c'è stato un monitoraggio sull'uso di questo strumento. Seconda cosa. Terza cosa, questo monitoraggio è stato limitato nel tempo, proporzionato all'esigenza di provare, io una persona che non lavora, vedo che non produce, provo a capire per un tempo limitato, monitoro l'uso di uno strumento per capire cosa fa. Quarta cosa, non c'è stato un monitoraggio pieno, cioè lettura completa dei messaggi mandati alla fidanzata nel caso di specie, ma si è solo constatato che non erano messaggi professionali, il presupposto per cui sono andati a guardarli era che fosse professionali, in buona sostanza non è vero che la Corte ha detto potete farlo e chi sbaglia viene licenziato, ha riaffermato dei principi che sono poi i principi che abbiamo anche noi in Italia, che sono riaffermati all'inizio di quest'anno, a aprile di quest'anno, è stato dell'anno scorso, a 2015 è stata approvata una raccomandazione del Consiglio d'Europa, che sarebbe l'ambito in cui opera la Corte che si è pronunciata, la CEDU, in cui si dice appunto che si auspica la minimizzazione di questi controlli difensivi, soprattutto perché sono particolarmente invasivi, quando sono rivolti al Consiglio d'Europa. Per cui, come dire, c'è stata molta enfasi nel presentare questa sentenza, in realtà dicendo queste cose in un caso specifico come questo non si fa che riaffermare i principi che abbiamo anche noi, che sono contenuti nelle linee guida che il Garante ha approvato nel 2007, che sono validi anche dopo l'approvazione del Jobs Act, perché un'altra delle equazioni che è stata fatta è adesso Jobs Act, sentenza, ci dà ragione, eccetera. No, anche ora quello che è previsto è che il datore di lavoro ha la possibilità di verificare che gli strumenti aziendali siano usati correttamente, questo non glielo impedisce nessuno, però innanzitutto deve informare tutti i lavoratori di quali sono le condizioni di utilizzo, quindi avere una policy aziendale in cui si dice guarda, questo strumento lo puoi utilizzare per questa e questa finalità, non per altre, e informarlo sui controlli che lui può fare, cioè io ho la possibilità e mi riservo in determinati casi con determinati presupposti la possibilità di controllare la tua mail, l'utilizzo del computer che fai, eccetera eccetera. Quindi il primo elemento è questa della informazione, il secondo sono i presupposti e quindi l'applicazione di quei principi che sono ragionevolezza, proporzionalità, non eccedenza, cioè non è consentito il controllo massivo anche sullo strumento aziendale, è consentito il controllo laddove sia stato informato il lavoratore, ci sia una regolamentazione su quest'uso e ci siano i presupposti che fanno scattare la possibilità di controllo, allora è possibile farlo. Vale in Romania, vale per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, vale in Italia con tutti questi presupposti. Giuseppe Busia, per chiudere, vari ascoltatori adesso se la prendono con gli statali. Luciano dice è giusto, ma deve essere una regola per tutti, privati e pubblici. Infatti nel pubblico l'uso di mail, Facebook e affini è stellare, così dice Luciano. Poi è una regola che vale per tutti, questa è una regola che vale per tutti, parliamo di diritti dell'uomo, il datore di lavoro pubblico o privato deve chiarire cosa fare, il lavoratore lo deve sapere, se i patti sono chiari, il controllo è proporzionato, limitato a quanto necessario, allora è possibile, non sono la normativa sulla riservatezza non consente gli abusi pubblici o privati che siano, consente e ritiene però che ci sia una sfera di libertà che il lavoratore conserva anche sul posto di lavoro. Benissimo, molto chiaro. Grazie Giuseppe Busia, grazie. Segretario generale dell'Autorità Garante della Privacy. Grazie. Grazie, alla prossima. Buona serata. Alla prossima, Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre sulla questione della privacy e dell'utilizzo dell'email, Cristiano dice che George Orwell avesse ragione centrando in pieno 70 anni fa il disegno di un mondo origliato, sorvegliato in ogni antro possibile, in ogni movimento umano. Però il segretario generale dell'Autorità Garante della Privacy ci ha spiegato che in realtà questo perimetro di libertà del dipendente comunque c'è, se ci sono patti chiari con l'azienda. E poi invece un altro ascoltatore, Rino, dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ciao Roberta, grazie per questo spazio di intelligenti argomentazioni. Beh, se lo dici tu mi fido, dice il mondo cattolico è cambiato rispetto alle unioni civili, come diceva Bersani all'inizio, dice no, nel modo più assoluto. Adesso però vi ricordo le notizie più importanti che sono gli aggiornamenti da Istanbul, il kamikaze aveva chiesto asilo in Turchia, arrestati intanto tre russi, il primo ministro Davutoğlu, il primo ministro turco, evocatori segreti dietro la strage. Poi unioni civili, appunto il 28 saranno in aula e Forza Italia intanto fa sapere che voterà contro il disegno di legge Cirinna. C'è stato l'ultimo discorso del presidente americano Obama alla nazione, con citazioni del Papa dicendo no all'odio contro i musulmani, e il declino dell'America è pura fantasia. Caso Marò, la corte indiana dice che la torre resterà in Italia fino al 30 aprile, ma la Farnesina dice resterà fino alla fine dell'arbitrato. E poi questa valanga killer sulle Alpi francesi, i liceali francesi travolti, il professore li porta su una pista chiusa, 3 morti e altri 3 sono molto gravi. Aggressioni con l'acido, 16 anni a Martina Levato, 9 a Magnani. Si sono accaniti contro di me, dice lei. Risarcimento da 2 milioni ai giovani sfigurati, e c'era qui a effetto note l'avvocato di Stefano Savi. Europa 24 notte. Parliamo di Cina e di economia di mercato. Una distorsione delle condizioni di mercato che porterebbe alla perdita di 3 milioni di posti di lavoro in Europa e un calo del PIL dell'1-2% è la stima del possibile impatto del riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina. Tema contro il quale si sono schierati compatti gli eurodeputati italiani e in generale la maggior parte del Parlamento europeo, mentre la Commissione sarebbe più favorevole. Oggi, prima riunione del Collegio dei Commissari, la decisione è stata rinviata alla fine del 2016 per le necessità di ulteriori approfondimenti. Alessandra Schepisi ha sentito David Borelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. L'impatto più grave lo avrebbero le aziende, quelle aziende fondamentalmente dei settori che oggi vedono di fatto bloccati i prodotti cinesi da sistemi antidumping. Penso per esempio all'acciaio, penso alla carta, al vetro, alla ceramica, tutti questi settori che poi nel nostro paese significa anche molto spesso eccellenza, oggi riescono a vendere e esportare il loro prodotto perché i prodotti cinesi vengono sottoposti a misure antidumping, perché prodotti e venduti di fatto a un prezzo inferiore rispetto al nostro, perché la Cina aiuta a livello statale le proprie aziende permettendo di vendere i loro prodotti sotto il costo di produzione. Ecco che quindi con delle regole antidumping e con di fatto dei dazi riusciamo a bloccare questi prodotti e le nostre aziende riescono a sopravvivere. Se viceversa dovessimo togliere questi dazi, perché non possiamo applicare questi dazi a un'economia che viene definita economia di mercato, ecco che ci vedremo invadere i nostri mercati di prodotti cinesi a basso costo e le nostre aziende di fatto non riuscirebbero più né a vendere né a esportare. Questo significherebbe chiusura di aziende, perdita di posti di lavoro, perdita di PIL. Quello che noi siamo riusciti a fare ieri è stato quello di dire ok, su un tema di questo tipo qua non possiamo correre da soli, non possiamo portare ognuno la propria bandierina, dobbiamo unire le forze, quindi abbiamo fatto un incontro al Parlamento europeo dove hanno partecipato 4 gruppi su 8, tra cui però i gruppi grossi, quindi il PPE e i socialisti, sul nostro invito. Ci siamo messi tutti intorno a un tavolo e abbiamo deciso che effettivamente il pericolo è alto e che secondo noi questo automatismo non va riconosciuto, non va dato questo status alla Cina. Quindi è arrivato chiaro il messaggio alla Commissione che il Parlamento europeo e la gran parte dei parlamentari europei non vogliono concedere questo status di economia di mercato. Ecco, ma perché si vuole concedere questo status? Ma allora la scusa è ovviamente una scusa di tipo tecnico legale, nel senso che nel 2001 la Cina è entrata nel WTO e quindi dopo 15 anni era previsto che si facesse un check per verificare se effettivamente alcune migliorie nel loro mercato interno c'erano e che quindi potessero uscire da questa economia di Stato e diventare un'economia di mercato. Secondo il nostro punto di vista questi passaggi previsti non sono stati fatti e quindi questo automatismo va interrotto. La Commissione si difende dal punto di vista giuridico dicendo beh, lo abbiamo scritto, glielo dobbiamo riconoscere. La realtà poi è che molti paesi hanno invece interesse a riconoscere questo status perché ovviamente vivendo di commercio e non di manifattura, come invece è peculiarità del nostro paese, chiaramente hanno grande vantaggio a scambiare merci indipendentemente da chi sia a produrli. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Vedo un aggiornamento di poco fa, un'agenzia di questi istanti. Forze speciali americane sono sbarcate in Iraq per condurre operazioni contro l'ISIS nell'ambito di un ampio sforzo nel 2016 per colpire i militanti del califfato e che include truppe per le operazioni speciali in Siria. Lo ha annunciato il segretario della difesa USA Ashton Carter. Adesso però alleggeriamoci con Milan Carpi. Non so se prosegue 2-0 Giovanni Capuano, ma insomma comunque l'allenatore manterrà il suo posto sulla panchina? Ma sì, se non succede niente nel secondo tempo, sì, tra l'altro il Milan sta giocando bene, al di là dei due gol, Bacca 14esimo, l'abbiamo già raccontato, con una rabona, e poi Niang al 29esimo su assist dello stesso Bacca, che è assolutamente il migliore in campo fin qui. È un Milan vincente, Carpi che forse si è presentato un po' in versione dimessa a questo quarto di finale di Coppa Italia, però Milan sta giocando bene, sta correndo, sta giocando con ordine, sta trovando buone risposte anche da alcuni giocatori spesso contestati come Montolivo e Ondà. Insomma, fin qui sta filando tutto liscio. Se doveva esserci una risposta in difesa di Mihajlovic e del suo posto, del suo ruolo, diciamo che almeno a guardare questi primi 45 minuti il Milan è compatto per Mihajlovic. Poi attenzione, perché però la storia di questa stagione ci ha raccontato che spesso c'è stata differenza di rendimento tra il primo e il secondo tempo, in negativo e in positivo anche, perché ad esempio a Roma il Milan è cambiato molto meglio nel secondo tempo. Grazie. Però qui la gara è sempre indirizzata. Benissimo, grazie Giovanni Capuano, quindi resterà per il momento sulla panchina, ci sentiamo alle 22.